un canguro tu mai visto, eh? Un canguro si è messo dritto, un topo, cazzo, anche un razzo, la via era ancora, minimo era 30-40 centimetri, si è messo dritto, gli si è puntato, parte quest'uomo, cazzo, ha preso una strampata dalla spavento, gli ha preso, perché dice che il temeva, ma io topo così grande non ne ho mai visto, non ne ho mai visto, e si è mangiato completamente tutta la plastica, no, tutta la gomma del rivestimento del cavo, e poi è andato a toccare, deve essere ha toccato i fili, hanno fatto corto e saltato l'impianto. Ma troppo così grande io non ne avevo mai visto. Ci credo, ci credo. Ma qua guarda, senti un po' se la lavorazione è troppo forte o meno, più basso, perché la vedo che sta andando oltre la soglia. No, io ti ascolto bene. Va bene. No, perché solitamente non usciva dall'LC. Quindi adesso invece, forse perché ho fatto qualche passaggio un po' lunghetto, sta andando e aumentando. Vabbè. È così. Vabbè, in campagna ci sono, quello aspettatelo, però c'è la soluzione. Eccomi! Vabbè, 10 minuti, che si butti da zero la vita. Ma poi mi butta. Buonasera, dimmi, l'ho fatta una gigante divisa tra me e Sara, con altro formaggio e patata al forno, buona redda Buona tu, avanti la buonasera, già tu sì. Ehi, buonasera a tutti, dai, mi sta ascoltando, sono sdraiato, mi sta ascoltando al cappuccio. Ciao Gianni, ciao, buonasera. Anche il Lucio Doppio sì, o da solo? No, da solo. C'è una teoria. È partita. Hai visto già, per il gagino d'ora, da domani siamo d'ora a butti a capo. Vabbè, sì, state anche al Lucio perché guarda, vabbè, c'ho la finestra chiusa, c'è il riscaldamento acceso, però sono ancora con la felpetta perché adesso iniziano i problemi. Sono già le 8:15, adesso mi preparo per portare il cane. Cazzo, ma dimmi, da rubare lo freddo, che è un freddo vuole che ti pide la iatta, cazzo. È freddo. Ma freddo già, non sono lì, ma quassù c'è un vento freddo allucinante. È la stamattina qua che c'è freddo, che ti penetra. Saluto tutti cordialmente, dai, c'è Antonio, c'è Ottino, non so se ci sia altra gente. Dai, sono all'ascolto, sono qua che vi ascolto, dai. Poi, sì, ci sta bene al calduccio. Adesso ci sono le 8, dopo andiamo a salutare. Ma che cosa c'è già perché? Cosa? Ho detto cos'hai perché? No, niente, mi sto mandronando. E allora già va bene quello. Io sto invece così, chiacchierando qua e nello stesso tempo sto cercando qualcosa nel PC da Marketplace, questa roba qua. Ne ho visto un paio qua, un po' più piccole di queste, un bel po' più piccole di queste che ho io. 2008, 2000, 2005, dai, este. Non c'è niente da fare, no? Mamma mia, anch'io già sto tentando, ma sono già le 8:15, sono in preparo. Le palle, guarda. Lo so, la mia paura è quella, ti. I topolini di campagna, mi organizzerò, perché a me sinceramente fanno schifo. Però se entrano dentro casa è un casino, bisogna stare molto attenti. Infatti mia moglie è anche un po' preoccupata. Vabbè, ci organizziamo, dai, insomma, le porte si tengono chiuse, ma le finestre, non salgono le finestre, non ti preoccupare, è che se trovano la porta aperta e cercate appunto la mondezza di non lasciarla fuori nella veranda, perché sennò se non butti a capo si lascia dentro e la mattina, che io sono quello il primo che esco sempre, la butto via, perché sennò è un casino. Ci sono i pro e i contro, purtroppo. Va bene, dai, raga, io mi allontano, ma penso una decina di minuti, 15 minuti, il tempo di far fare i bisogni a Filippo, poi me la risalgo a chi? A Giambetti Rubacone e veda Gian Carassi, minchia il freddo che c'è fuori, che è allucinante. Anto, riprendi tu e fai girare, dai, datemi il tempo, già arrivo subito. Ecco, ci va la mira, dimmi un fusile di chi c'è. dice se carabine, ridire. Guarda che dice ai bendeggi che si giure che. Se no ti fotti un po' di cinesi che ti piace. Ha detto, e papà prendiamo qualche gattino, è bruco gattino, è bruco. Cioè, c'ho la pistola, Anto, sono più bravo con la pistola, con i fucili no, non sono molto bravo, ma con la pistola io, cioè, di arrebbisigheggio, no, ma non penso comunque, io perlomeno non ne ho mai visto, sinceramente, non ne ho mai visto, ma neanche mio zio non si è mai lamentato qui, cioè, sono sempre le ciotole piene, il mangiare dei cani, no, non ho mai visto niente, però ripeto, è campagna, è campagna, basta un topolino che ti entri dentro e ti fa un disastro, ti fa un disastro. Beh, io dico, ho visto tutta la roulotte, lì a Stentino, di mia sorella, capito? Quindi è un casino. Vabbè ragazzi, dai, io mi preparo e datemi il tempo per portare il cane, già, sono già quasi meno 10. E poi già ci sentiamo dopo, le prendi già. Ehi, hey, Alaska, buona passeggiata. E tra poco mi alzo anche io, dai. Mi sono sdraiato adesso su questo, perché acceso la radio, invece adesso c'è qualcuno che si è sdraiato. Ma ci sta bene, hai sotto il primo, ci sta bene. Va bene, avanti Antonio. Capo, anche qua ci sta bene, guardo. C'ho il piumino sopra, mi sgoglierà, dopo fa bella. E a voglia che ci sta bene. Dammi un'idea anche tu, devo pigliare un poco di calamari e patatine, dove le posso prendere? Dove le puoi prendere? Sul gelato? No, già fatto da mangiare, qualche pizzeria, qualche posto dove le fanno. Perché questo di sotto casa le fa mai chiuso. Capo. Non so che li può fare, cavolo. No. Calamare patatina. Non so se hai qualcosa a Marcellino, ma. Sì, vabbè, se mi viene mettere qualcosa, ma forse sono da Obelix le fa. Ma non so. Aspettiamo che no. Se ce ne fa. Capa. Poi c'è quello gastromania qua su, Corso Vittorio Emanuele qua su, c'è che o fa qualche cosa del genere, non so se la fa. Ehi, aspetta che sto scrivendo un'email, riprendo subito, scusate, devo passare il volume, che è importante. Ehi, va bene, dai, vai, vai. E allora, tu ci ho sparato, cosa stai usando? Tutta la solita radio. Ah, va bene. Bello forte. Bello forte. Oh già, ma te l'avevo chiesto il controllo con questa, sì, con 430, va bene? Benissimo, va bene, va bene. Io adesso acceso il Galaxy, mi contate. Come sto andando? Bene. No, vabbè, per questa non mi ricordo se ce l'avevamo sentiti. Perché è arrivata lunedì questa settimana, beh, sto usando questa, ma c'è anche il Galaxy acceso in stand by, quindi magari poi passi un pochino con quella, l'importante è che sta andando bene, come sempre, no? Sì, va bene, e questo dovrebbe andare meglio, adesso che è stata tutta revisionata. Già, un sacco di cose che ha fatto, 10 anni che non toccavo questa, non ha cambiato niente di che, è un'altra funzionante, per carità, però mi accorgo che va molto meglio. Ha abbassato i watt perché si è incazzato, non si può ottenere tutta quella potenza. Questo dobbiamo lavorare a 40 watt, infatti lavora a 40 watt in AM, 100 in FM e 100 in SSB. Come dice il manuale, infatti io ho 10 watt di portante e 25 modulati, quasi 30. Va benissimo alla grande, però ha migliorato tantissimo. Va bene, no, tu sei 9,25 era 10,5. Non c'è problema. Vai Anto, sto andando a portare il cane, Castburu. Oh, mi devo mettere i guanti e il berretto pure, ma dimmi tu che sta a marzo. Capa. Perché qualcosa ha cambiato, non è che non sto utilizzando, cioè l'ho abbassato anche di potenza, non le sto utilizzando tutte. Ah, c'era così, Anto, non lascio le varie, va bene. C'è lo strumento attaccato, ma così muove la stazionaria. No, ma il watt, tu c'hai il coso, no? C'hai anche il watt metterlo nello smitter, quindi è abbastanza preciso quello strumento, perché era stato già visto questo. con lo strumento esterno, quindi ti puoi basare anche sul watt che ti dà la radio ed è perfetto. KK, però no, ma già me ne accorgo, non sarà uscire a metà, a voglia, no, non ho fatto arrivare a 100, va benissimo. E non va a tirare, è salute, io ero così, come sto dicendo, come dici tu, però il tecnico mi ha detto che solo salute, perché queste radio devono andare in AM a 40 watt, non devono andare di più, altrimenti sfrutti troppo il finale, e quindi, vabbè, falla così e così la uso, infatti non aggiungo più avvenuta, come rivolta, l'ho attaccata e ti dico che sono più che soddisfatto. A dopo, Gianni, riprendi? Sì, io dai. Vai a passeggiare, vai. Antonio, allora, ti ha bagnato? Eia, oggi pizza con 4 formaggi e patate al forno. Buona redda, Ti ha pagato. Una bomba. Buonasera, buonasera. Mi sono invitato di farti ascolto. Porto. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Ciao G, beh la rotta è posto ancora se non ci sono. Ora che si sono fatti il volto, non gli ho sentito, l'ha pagato. Ma stasera adesso non ci sono. Ma adesso non ci sono, ma la faccia è che ha. Se forse non ho detto, mi sono capitato il piatto. Quando Antonio. Dimmi G. Mi sono dimenticato che conti, non mi devo guardare, mi sono dimenticato. Chiappa, cosa mi hai detto? Non ti ho capito bene. Ogni tanto faccio che c'è un bruscio, faccio, poi faccio che da che mi domandano di cosa. Così fa, ripeti. Esatto, non ho sempre dimenticato, mi faccio la foto, di qua, ho visto la preparata. Ecco, domani senza mancare, vado. Ok, non c'è problema. Ti ha pagato. E che adesso cosa sto usando? Il Galaxy. Sono questo. Ma dammi un segnale di Radio Santiago, fammi la cortesia che voglio vedere la comparazione tra un apparecchio e l'altro con la stessa antenna. Allora, questa è la 7 e la radio 5. Ma uguale, uguale, c'è lo stesso segnale. Perfetto, ma non so che apparecchio sto usando. Tu che microfono stai usando? Quello che ho trovato. Ma è modello nuovo, non si può dire niente. Ho una cappa bellissima, già, che è proprio per un attimo a sé, proprio per non distruggare. C'è anche un tavolo più 3, se lo trovi, che lì va molto bene. Siamo da domani sera esco in maniera diversa. Vedi, va bene così, da domani si cambia tutto. Oh, oggi è tranquilla la radio, non è brutta, no, per intenderci, ma se metti un amplificato c'è anche più forte di radio. Sì, sì, no, la radio non è brutta, è sicuramente chiara, ma è come che stia usando un microfono originale, capito? Questo non funge, non so più bene, me lo faccio il capo da sotto perché lo vedo, c'è la prima parte che proprio piccolissima, ma non mi pare che mi faccio vedere un'altra cosa. Ho capito. Ah, non c'è il microfono originale? No, questo è il microfono. Ma se ti è arrivato col microfono originale l'apparecchio? No, con un microfono da banco, ma è la stessa, la 13. Ah, un microfono da banco, no? Va bene. E va così, può migliorare sempre, dai, non c'è problema. Sono qua, che è Eugenio? E io Eugenio. Ciao G, mi ascolti? Ciao, ah, va bene così allora. Sì, va bene, no, come sempre. Ma sempre questa radio, non è che... Ascolta, la radio è perfetta. Ma e poi ti avevi messo quel microfono? Ho detto, dovevi prenderti questo microfono, l'hai messo poi. Ma dove è il 24? Eh. Ecco qua, niente, te lo volevo dire, però sai, non sapendo cosa state utilizzando, non mi sono guardato. Per voi la modulazione non ha cambiato quasi niente, sei sempre la solita, la tua. Se ne avevi qualcosa? No, da quando ero sentivi, ma niente da fare. Ho detto, no, questo fatto non è trascordatore, ma in stazione fisso, ce l'ho sempre attaccato. Bene, bene. Antonio. Cazzo, allora io vi lascio perché mi sono contromendi, dai, buonanotte a tutti. Non ce la faccio più, Come fai, scusa? Che hai bevuto la pizza e ti sei già coricando? Capa, no, perché sto male. Quindi ho bisogno di dormire un po'. Ma voglio dire, almeno il tempo di digerire, ecco. Ah, io digerisco tutto subito. Tu, ma ti va bene bevuto? No, non mi sto bevendo nulla, sto male. La faccio durare oggi. Sto male, non posso bere, sto prendendo antibiotici, cioè tachipirina e cose. Dai, sei influenzato, Capa, un po' così. Dai, mi ascolto e mi addormento un po', ok? Ehi, Anto, dai, buon riposo. Allora ti conciliamo il sonno, va. Ma lei che sta facendo le coccole invece, ci vuole abbandonare. Capa. Non ve la posso brucio, se no qualche coccola già ve l'abbiamo fatta come la feci. Va bene, tu vai, ti lascio andare, ciao, buon riposo, riprenditi. Vai Eugenio. Ok, e quindi non stai uscendo in camera ancora? Bene, sono contento. E tu ti non hai comprato il campo? Sto guardando ancora qualche cosina, c'è qualche incertezza e forse organizzo con un amico vedere un pochino qualche cosa fuori. Ma la Rolotte ce l'hai sempre? No, già, l'ho venduta anche bene. Meglio così, dai. C'hai col campo e c'è tutto un mezzo, non sai a tra campo, un'altra cosa. Ma ce ne sono diversi di camper, anche guardato un altro passo che costini ce ne studio secondo mano, perché di solito lì ne gira la volta. Vai, che su fotivicio tra passo, chi è? Vai. No, devo essere sincero, no, ti ho detto che è perché ti ho sentito sul tuo conto, non per altro. Allora, conosco bene Rimor, il Mirage, come si chiama, i soliti, dai, questi tecnologia tedesca però mi hanno parlato molto bene perché hanno delle cellule molto commentate, bene sigillate e quant'altro, è vero? Antonio. sì, sì, l'ho sentito strano scorso, sì. Buono. Vabbè, io sinceramente non ho problemi di montaggio antenne né su macchine né su camion né su, su camper e quant'altro, perché insomma già riesco a farle queste cose qua ancora. Però io con in macchina addirittura da zona Santa Teresa ho parlato con Castelsardo, quindi non è che riusciamo a darci dentro, ecco. È entrato ciò, non mi? Ehi, claro. Sì, sì, vabbè, io lo so, un po', sono un po' così, diciamo che devo guardare un pochino le cose, perché ho tralasciato un po' la ricerca, quindi devo vedere un po' la ricerca, perché ce ne sono tanti, come sta facendo Gianni, anche da Trappanasso, qui a, a Cosa, aiutatemi a dirlo, per quanto riguarda i punti, aiutatemi. Sì, quello che volevo dire, sinceramente però non conoscendo, non sono andato, non so come sono, quindi però quando avrò la certezza credo di andare fuori a prenderli, perché tanto sempre quei 3-4 mila euro di differenza, sono 5, ci sono, capito? Quindi è sempre meglio prenderlo fuori che qua in zona, se poi uno non ha possibilità di andare, allora va bene. Un attimo qua, sennò poi me ne dimentico. Claudio lo conosce benissimo, questa persona che sto dicendo io è lo stesso, bazzica molto a Modena per macchine e quant'altro. Infatti mi ha detto andiamo assieme, c'è un piazzale lì a Modena che ti perdi. Vabbè, riprendi qua. Ehi, beh, se non si sa muovere lui che si sa muovere. Lui è di casa, lì lo sai. Ciao Luigi, buonasera, ben ascoltato, cordialità e saluti, riprendi. Ehi, ehi, no, che c'è Filippo che sta abbagliando? Le cassette sta abbagliando. Perché sono cassette, non è gente, non è il popolo. E ce l'avevo mai trovato bene, invece lo badrò. Cosa? No, sempre gli stessi, 10 watt, sempre quello è il mio segnale oggi, non lo tocco mai la radio, questo è 4.30, 10 watt modulati 25. Ah, perché basso sei? Ma hai dato 9.5 l'altro giorno? Ah, la finisce, te ne vai. Perché più basso il segnale, più non ti tocca da un dai. Ehi, va bene, 10 watt, posso anche aumentare ancora, non è che... basta, finì, ma tu ci metti esaurito, cazzo, ma non è che tu un po' buddoglio, sì. Minchia, tutte queste cassette qua in questa stanza si mette a bagliare, ma li metto, riprendi. molto spesso lì a Modena, capito? Però non sapevo che questa Monica fa gli stessi prezzi di lì, capito? Quindi volendo ci potrei fare un salto e vedere un pochino cosa mi propone, ecco. Io ero andato a Mestre, ma giusto così per farmi un giro per vedere, perché ero in quelle parti lì, qua passo, vediamo un pochino cosa c'è, non dovevo comprare niente, però ero in giro e niente, quindi ho fatto una puntatina lì, e anche lì già è bello, va. Oh Dio! Dimmi, Claudio. Ma il padre di quella persona che conosciamo entrambi, ma è di Modena o vicino a Modena? Macerata. Ah ecco, Macerata, le Macerate, sì, non me le ricordavo adesso. Tuttora lì, perché non può uscire, cioè lui lo sai, no, che ogni anno viene a trovare, però se rimane in questa zona qua mi sa che non può viaggiare. È peccato, ma è grande adesso, più di 80 ne ha. 87 se mi ricordo bene. Io conosco uno che è cornuto. Come? Conosco uno che è cornuto. E anche noi ne conosciamo tanti che sono cornuti, però purtroppo non ci possiamo fare niente. Avanti oggi. Oh, beh, quindi sei cazzato. Oh, scusate un attimino, qua devo uscire a prendere la gabbia, sentiamo dopo nel caso, va. Ciao Gino, ciao a tutti, l'inventore scultura, ciao a tutti, a dopo. Ciao T, buona persicrecca, va. Ciao T, ciao, ci sentiamo. Vabbè, non è che arrivi sul basso di uno oggi, se sentiamo 9, quindi non c'è problema. Io ti sento sempre, anche tra un passaggio e l'altro, ma infatti dico sempre di lasciare un attimino di bianco, ma a volte sono questi occhi e non riusciamo a entrare noi, a volte da Sassari, purtroppo è così. Avanti già. Io devo scendere a portare il cane, questo è dubito ancora. Non so, c'è coricato e quando è coricato non scendiamo anche un buco. Mio amore, ecco, ripeto, già, sono andato e l'ho messo qui e l'ho portato, e se no, no non si discede, mi sono talmente mandrone, capito? È un casino, vai genio. Ma cos'è il camionista? Anche a me me l'ha detto, ma glielo ho detto, purtroppo, a parte il fatto che molte volte non lo sentono, lo sento io con Roberto qua nelle zone alte quando inizia a chiamare dalla zona di cose, ho capito, lontano, con Longiano, su quelle zone lì, se no è difficile che arrivi, ve l'ho già spiegato, però dai, in linea di massima già due chiacchiere ogni tanto già se le fa con noi. Stai andando a portare il cane già? Non è già andato a portare il cane, vabbè, tutto a posto comunque già. C'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10, a parte i cornuti, boh, così ho sentito. E anche qua a Santiago Nova, no? Non so se vuole parlare solo con i cornuti, qua non ce n'è cornuti, eh. Perlomeno io ho dopo 40 anni di matrimonio, mia moglie è sempre con me, quindi. KK, e tu oggi, ma sei andato di là? Per capirci, non sei andato, non ti sei sentito? La domenica lui c'ha sempre gente, capite, suocere e così via, quindi magari si è sfortato. Vabbè, non c'è fretta, poi viverete e te la prendi quella quarantena, vai, capito? Tutto a posto. Non c'è problema, voi avete così, la prendi con l'antenna che ti serve per il campo, già va bene. Lui ragazzi, sono riuscito a portare un cane, mi sono voluto mettere la cuffietta, mi conta la c'è vinto l'altro giorno, di lana così. Ho un freddo, la reci, la viu. Stavi dicendo a Tino? Ma il camper è una casa che cammina, lo sai, mille metri, sei camperista, io no, però ne ho visto e ci sono stato anche in periodi estivi con qualche amico, è veramente una cosa molto molto bella, molto molto bella. Ma quella è fatta apposta, Eugene. Quando è fatta dalla casa, magari sotto la vetroresina gli hanno messo una piastra di ferro o qualcosa per far massa l'antenna. Quando l'impianto è fatto dalla casa sicuramente è meglio di quello che facciamo noi, perché se lo facciamo noi a bucare non puoi bucare e quindi è un casino, la devi mettere per forza nella macchina, capito? Per fare utile della macchina, il parafango della macchina. C'è la mia età, siamo andati alla stessa carriera, c'è Bobbì, è quello che conosco più di tutti. Guarda, io ti ho sentito da Stentino, stavi parlando proprio adesso, non so, con Antonello o con Claudio, sul canale 12, e a me da Stentino, però stai attento, io Stentino ce l'ho davanti, è l'ovvero, vero proprio Stentino Country, l'ex Bagliandino, io l'ho sul petto l'ovvero, ok, mi arrivavi Santiago 7. Non ho messo la portante, è in fuga mai. Allora lì a Porto Torres sicuramente, non lo so, o qualcuno che non vuole, che non sta uscendo, avanti chi vuole entrare? No, non è quello da Sassari, no, sicuramente no, sarà lì, non so, qualcuno che non esce. Ah, era sotto di me, c'era un fischio? Io ti sentivo oggi, ti sentivo Santiago 7, capito? Ti sentivo Santiago 7, quindi non è che non va bene, va bene che c'è poca potenza. Ah, KK, già va bene, già va bene. Ma mi sentivi sopra la portante? Sentivi un fischio sotto? Così mi regolo, perché orientativamente so già chi è. Ah, va bene, va bene. Gappa, metà strada, tra me e te. Era buono in luce, c'è portante, fa di finito. Ma qui va bene. Gappa, va bene, Tino è uscito, già mi è andato a portare il cane, Antonio va bene, Antu. No, io stavo cambiando radio, claro, no, sono a... Come lo sto uscendo? Guarda, uno, due, tre, prova. Perché questo microfono ha un po' dura la portante, capito? C'ha il tasto invece che averlo lungo, ce l'ha quadrato, dove si male il video quando la clicchi. Adesso scendo bene. E io. È un po' compressina, è un po', non è chiara la modulazione, beh, ma già si capisce oggi. Aspetta. Allora, questo è chiuso, provo a vedere adesso lo sto chiudendo, sto regolando il clarifier, vediamo un pochettino. No, non toccare il clarifier già, che magari la sposti, già va bene, lasciala così, già va bene, abbastanza comprensibile. Però ti ripeto, questo sicuramente è la static, non è la miglior radio che hai, stai attento, è comprensibilissima, va bene, però non è la migliore, Gianni, Vabbè, io gli avevo fatto questo perché questo avevo e gli avevo fatto questo qua, ma già va bene, dai, tanto questa qui è una radio che non è che uso sempre, la uso sì, ma non la uso sempre, capito? No, va bene, però ti ripeto, non è la migliore, va benissimo, va bene, però rispetto agli altri è un pochino più cupa, un pochino più, rimane un po' più compressa, capito? Vai oggi, riprendi. Ah, quello là, quello grigio? Quelli sono storici e bellissimo microfono a vita che io lo uso una vita, veramente una vita, dall'87 che uso quel tipo di microfono lì. Avanti già, ma sei andato a portare il cane o no già? No, ancora sono andato, adesso vado, fa poco, mi devo decidere, sta bene sto coperto. va bene, vai Gianni, che poi c'è più umido, è ancora peggio, mi sono messo la cuffietta, Milana, giubbotto pesante, l'ho portato 10 minuti, ha fatto il butto, via, subito al portone, mi è già cucato, borra, vai, portalo, vai, sennò poi c'è troppo freddo, più umidità c'è già. Ma io lo tengo mezz'ora, non 10 minuti, lo tengo mezz'ora, lo faccio girare, fare, non è così, no, io 10 minuti non faccio nulla, non io, deve stare girando, facendo prima di fare tutto. No, lui già fa tutto, soprattutto dove è freddo, fa l'impresso e poi si ritorna al portone direttamente, subito se ne vuole andare, ha fatto 2-3 volte la pipì, la popò qua nel mio giardino e via a casa. Invece la mattina fa un po' di più, perché quando c'è un po' più di sole, ma al buio lui scappa, se ne lo troverà in pressa. Gappa, quanto stiamo dicendo oggi? Ma tu che te ne stiamo dicendo oggi? Quella uguale a quella di Gianni? No, va bene, senti la roba, sì. No, va bene, alla grande, avanti già. E a fine abbiamo fatto la comparazione, il stesso baracchino, 60 anni, chiamavo lo stesso segnale, quindi va benissimo, non c'è nessun problema. Dove l'avete fatta? Cosa hai detto già? Comparazione, RV? Eia, devo spedire roba, minchia. Devo spedire roba. Adesso vediamo. Eccomi qua. Poi, già, questo è un altro pianeta. Questo come va, Claudio? Un altro pianeta. Dalla 500 sei passato già, non dico la Ferrari, ma la Mercedes. Cavagava, questo qua è quello là. Quello, per intenderci, che abbiamo preso con la persona. Dai, ne ho messo... sai che cosa? Almeno 93. Va bene già, ottima radio, bella, chiara, pulita, meglio di quella che stavo usando poco fa, ma molto molto meglio. Confermi oggi? Scendo di radio. Cosa hai toccato? Si sta dicendo un bip. Sono arrivato, Ehi a te, c'è Gianni che sta provando la radio, ma non la sento di radio, sento solo il bip. Prova a vedere, 1, 2, 3, prova, cambio. Adesso sì, ciao Eugenio, stai andando via? Ciao Eugenio, ciao, un abbraccio, tante cosce belle, ci sentiamo. Bottiglia, ciao ciao Eugenio, dai, nel caso mi informi ancora di più di questa vendita, di questa Monica che vende, dai, ci sentiamo. Scappa. Andando via stai Eugenio? Sì, penso di sì Gianni. Non sei attaccato ora? Io no, no, non sono attaccato, sono normale. Domani 4 più di oggi, vedi le previsioni complete, vediamo, meno male, attivati qualche cosa. Sì, molto, molto spinto però, perché vai oltre la soglia di come andavi prima, va bene, va bene. Molto spinto cosa? Cos'è? Ho detto molto spinto io? No. No, no, Gianni, in confronto. Ah, gappa gappa. No, io lo... ce l'ho come mi hai regolato tutti, a 2 Mickey Game, la potenza è sempre a 10 watt. Io sono liscio, sono. La potenza... aspetta, dico subito. La potenza... questo qui è quella bassa, questo qui è la potenza bassa, c'è proprio quell'altro, questo dovrebbe avere più picchi di modulazione. Sì, però la modulazione ho già un po', in un passaggio mi è parso un po' metallica e barattolosa. Vabbè, questo qui è l'M93, aspetta. No, la tua clava va bene, come modulazione è perfetta. Così me l'hai regolata tutti, io non ho toccato niente, se lo sai. E quando è arrivata avevo bisogno che non mi ricordavo le regolazioni, però una volta che è regolata la lascio stare sempre così, e va bene. Anda bex, anda bex. Ia, e cosa ci vuoi fare? Sono già gli 8 e mezza, diciamo che adesso molliamo. Perché c'è roba da mettere al forno, dai. Io per il momento vi saluto tutti. Dovrebbe esserci anche Antonio, fra un po'. E ci sentiamo dopo se ci siete. Dopo cena. Vabbè, domani lunedì si lavora. E non spedire roba io, cazzo incontinente, domani. Infatti mi ha mandato un messaggio a ricordarmelo. Però ho paura che non viaggino i corrieri, cazzo. Nulla ne sai tu. No, c'è un importante col bip. No, ma penso che viaggiano comunque. Prova, 1, 2, 3, prova. No, è Gianni che sta provando, prova. Sto provando un altro microfono, aspetta, perché c'è il parlascolo, il casino. E invece non posso alzare di più perché c'è il parlascolo. spegnilo, staccalo, toglielo. E adesso al buio non ci vedo un cavolo, va. Come va questo microfono? 1, 2, 3, prova. Questo va bene, cos'è, c'è venta? Cava, guava, il sapore fa, adesso a vedere. No, c'è da abbassare il parasfolto. Troppo alto. Questa spinge un bel, questa spinge un bel col Savelta. Dai raga, io vado a mettere qualcosa sotto i denti, sono già le 8:30. Se ci siete a dopo, altrimenti ritirate, vi salutate a domani. Ok, ti senti, sentiamo. Ehi, adesso vediamo, tanto un po' rimango qua, poi sto aspettando ancora i ragazzi che finiscono di fare la luce, che è appena rientrato, poi vediamo. Ciao, a domani. Ciao, qua, ciao. Già, per il momento sono qua. Ehi, ehi, no, io lascio tutto acceso, non spengo niente, spengo niente. La luce è qua e vado a mettere qualcosa sotto i denti e poi ritorno. Se c'è qualcuno va bene, se no pazienza. Ciao ciao, ciao ciao. Ciao ciao, buonasera. Un pochettino, vediamo un pochettino se va bene. Ok dai, buonasera a tutti, sono anch'io da proprio giù il cane. Ehi, hai un leggero innesco e comunque già. Va bene, ciao ciao, allora niente, se mando un Rix, guardo due cose al PC e poi vediamo. D'accordo, ciao ciao. Ciao ciao, dopo. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3. Ora, ora, ora, ora, ora. Ora, ora, ora, ora, ora. Ora, ora, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3. Oh, oh, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Ui. Ora, 1, 2, 3. Ora, ora. Ora. Oh, oh, oh. Ora, 1, 2, 3. Ora. Ora, ora, ora, ora, 1, 2, 3. Oh, oh. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, prova. Cambio. Cosa ha fatto?